Biden, la grande sfida, Cina, il virus di confine. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Today I congratulate Joe Biden, a very decent man, who I will work with to move our progressive ideas forward. Over 100 cases have been reported in northeastern China's Heilongjiang province. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Ben ritrovati anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Elisabetta Fusconi in assistenza e in regia, Andrea Roccabella. (349) 238 6666, sms e whatsapp, domande e commenti sui due temi che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Potete commentare, ormai lo sapete, anche attraverso i social. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Se amate Twitter invece, i due account sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi è gioco forza a occuparsi dell'ultimo atto del lungo percorso, la lunga cavalcata dei democratici verso la sfida finale a Donald Trump, con il ritiro di Bernie Sanders. Joe Biden a questo punto è l'uomo che deve sfidare Donald Trump. Quali sono i suoi punti di forza? Quali sono le sue debolezze? Potrebbe approfittare anche dell'emergenza coronavirus? Vi darò conto di quelli che sono alcuni sondaggi dell'opinione pubblica statunitense su come si sta muovendo l'amministrazione americana rispetto a questa emergenza. Se Biden sarà cinico e smaliziato come un agguerrito contendente a Trump dovrebbe o potrebbe essere, allora anche l'emergenza coronavirus potrebbe essere una formidabile leva politica. Lo dico ben conscio comunque del fatto che l'OMS, che ha indirettamente rimbrottato Trump proprio ieri, me ne davamo conto nella puntata di ieri di Nessun Luogo Lontano, ha invitato tutti i leader politici a non politicizzare appunto quella che è l'emergenza coronavirus. Questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nella seconda andremo in Cina, torniamo in una piccola città del nord-est, poche decine di migliaia di abitanti, che sostanzialmente sta vivendo l'incubo che aveva già vissuto Wuhan alcuni mesi fa. Che cosa significa questo per la Cina? Cercheremo di raccontarvelo. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Anche quest'oggi la prima cosa da fare è sfogliare i grandi dossier internazionali. Il primo ci porta in Siria e a Damasco, nei dintorni di Damasco, per alcuni eventi che ormai risalgono a 3 anni fa. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha puntato il dito in maniera inequivocabile, ed è la prima volta dall'inizio del conflitto, contro il regime di Bashar al-Assad per l'utilizzo di armi chimiche. Lo sapete che questo utilizzo da Damasco sempre smentito dagli Stati Uniti, prima con l'amministrazione Obama, molto meno con quella di Trump, utilizzato come leva per cercare di spodestare Bashar al-Assad. Vi sono stati una serie infinita di rimpalli sulle responsabilità, qualcuno diceva ribelli, qualcun altro diceva Assad. Ora, dopo alcuni anni di indagini, sembrerebbe, secondo l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, che 3 episodi avvenuti nel 2017 in alcune aree abitate da civili ma controllate da alcune forze dell'opposizione, sarebbe stato il regime di Bashar al-Assad a sganciare gas sarin e cloro. Il bilancio di quegli attacchi è assolutamente controverso, si va da alcune centinaia di vittime, pensate, secondo altri conteggi addirittura 1400 in un singolo attacco. Il coordinatore degli investigatori dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, dopo il lungo lavoro, ha sostanzialmente sottolineato che soltanto una ferrea e disciplinata gerarchica linea di comando poteva dare l'ordine di decollo a 2 jet Sukhoi-22 che fanno parte della flotta aerea della Repubblica Araba di Siria, per poi andare a bombardare queste località attorno a Damasco. Il regime stesso di Damasco ancora non ha replicato, ma è certo che se non vi fosse l'emergenza coronavirus a monopolizzare l'attenzione non soltanto dei media ma anche della politica internazionale, questa sarebbe veramente un punto di non ritorno anche nelle valutazioni che si fanno del lungo conflitto siriano, che è probabilmente una delle più gravi crisi umanitarie della storia recente, secondo alcune stime almeno 400.000 i morti. Un'altra crisi, questa volta alle porte italiane. Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari e di perdite miliardarie la chiusura da parte dei rubinetti, da parte del generale Haftar, dei rubinetti del petrolio in Libia? Utilizzando quella bizzarra, se volete, metafora, però secondo me molto efficace, immaginate due contendenti, due nemici che si chiudono in una stanza e aprono il rubinetto del gas e vediamo chi soffoca prima. Ecco, sembra che il generale Haftar non soltanto non stia rispettando l'embargo, ma questo l'abbiamo raccontato molte volte, e non sta nemmeno rispettando l'invito da parte dell'ONU, che novità direte voi, di fermare le ostilità per l'emergenza coronavirus. Vi segnalo che continuano dei rifornimenti che arrivano dall'Egitto verso la zona, la Cirenaica, controllata da Haftar stesso. Sono segnalati aerei, navi cargo. Questo in barba al, appunto, all'embargo che la comunità internazionale vorrebbe imporre. Dicevo, l'ultima arma che scaturisce dal cilindro del generale Haftar è non soltanto chiudere i rubinetti del petrolio, ma chiudere i rubinetti dell'acqua. Alcune ore fa alcune milizie legate a proprio al generale Haftar hanno imposto ad alcuni lavoratori la chiusura di una condottura che era stata costruita da Muammar Gheddafi ormai negli anni 80, che dal Sahara porta acqua fino a Tripoli, fino alla costa, praticamente rendendo all'asciutto parte della capitale e tutti i villaggi a ovest della capitale stessa. Ne ha dato annuncio il ministro dell'interno di Fayez al-Serraji, gridando e chiedendo aiuto alla comunità internazionale che faccia qualcosa. Peraltro, comunità internazionale che, ahi noi, non va oltre alcune condanne molto formali, l'ultima di Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, perché sono due giorni che sempre il generale Haftar prende di mira un ospedale di Tripoli. E l'ospedale si chiama Al-Qadra e per due giorni consecutivi, fino a ieri, è stato preso di mira dai bombardamenti del generale Haftar. Lo ricordo, uno dei principali sostenitori sono gli Emirati Arabi Uniti, che danno un sostegno aereo, soprattutto di droni, non indifferente. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi però raccontare quella che è una, quantomeno una dichiarazione di buona volontà da parte della coalizione saudita, e ci stiamo trasferendo in un'altra zona di conflitto, quella dello Yemen, perché la coalizione stessa, guidata da Arabia Saudita e Emirati Arabi, che combatte contro i ribelli Houthi che ormai da anni contendono a Sana'a il governo sullo Yemen, praticamente il paese si è spaccato in due, insomma hanno dichiarato una tregua, un cessate il fuoco unilaterale. A questo si aggiunge una inquietante notizia. Secondo Al Jazeera sarebbero almeno 150 i membri della famiglia Al Saud che avrebbero contratto il Covid-19. Secondo il New York Times, Faisal bin Bandar Al Saud, che è il governatore settantenne della capitale Riyadh, sarebbe anch'egli in terapia intensiva. Ora, non deve stupire il numero così alto, 150 membri della famiglia Al Saud che hanno contratto il coronavirus, perché la famiglia dei sauditi, di Al Saud in particolare, conta migliaia e migliaia di membri. Dobbiamo considerarla più una tribù. La tribù in effetti nasce da famiglie allargate, il cui legami di parentela vengono sempre comunque, come dire, consolidati, cristallizzati e anche narrati. E poi vi porto velocemente nuovamente in Kashmir, perché vi abbiamo dato conto delle tensioni interne, di quel doppio lockdown, quello per il coronavirus, quello delle comunicazioni nella zona quantomeno controllata dall'India. Ieri, anzi quest'oggi, è stata data notizia che l'esercito pakistano avrebbe abbattuto un drone indiano proprio lungo la linea di controllo che divide i due Kashmir. Sapete, c'è un Kashmir controllato dall'India e uno controllato dal Pakistan. Il mezzo avrebbe violato per appena 600 metri, secondo quanto dice Islamabad, lo spazio aereo e poi è stato abbattuto. Le autorità pakistane hanno detto che è stato un atto provocatorio che viola gli accordi tra i due stati. Atto provocatorio, ha aggiunto sempre il portavoce del governo di Islamabad, che riflette il costante disinteresse dell'esercito indiano per l'intesa su cessate il fuoco che risale al 2003. Allora, 349-238-6666, c'è qualcuno che si porta avanti e tira fuori quella che è la tesi condivisa, devo dire, da alcuni di voi ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, chiedere i danni alla Cina per questo disastro del coronavirus. Qualcun altro, la Cina non la racconta giusta, hanno ammesso di essersi mossi in ritardo, profondamente connessa attraverso una fitta rete ferroviaria e numerosi voli interni. Il primo giorno, continua l'ascoltatore, di apertura dell'aeroporto di Wuhan, ci sono stati 400 voli. Com'è possibile che la pandemia sia stata circoscritta in una sola provincia, visto poi il comportamento del virus nel resto del mondo? Così un ascoltatore che va a sottolineare la mancanza di trasparenza della comunicazione di emergenza e sanitaria anche del governo di Pechino. E allora, complice queste vostre osservazioni, questi vostri commenti, la prima cosa da fare è andare in Cina. Intanto ho sbirciato sulla nostra pagina Facebook, nel suo logo lontano, Tertino Radio 24, un ascoltatore smentisce l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, sostenendo che da un video che non allega, che non cita, le persone colpite da gas sarin e cloro si rialzavano tranquillamente. Allora, vi prego, se contestate il conduttore, ma assolutamente lecito farlo, per carità, ma ancor più se si tratta di un'organizzazione internazionale che tratta un tema così delicato, vi prego di corroborare le vostre tesi con adeguata sostanza e adeguate fonti, perché sennò vale tutto. E non siamo al bar, cerchiamo di sostanziare ogni cosa che viene detta, nei nostri limiti cerchiamo di verificarla. Detto ciò, dicevo, andiamo in Cina e più precisamente nel nord-est, al confine con la Russia. La provincia si chiama Heilongjiang e tra poco l'ospite mi correggerà. La città si chiama Shunfeng e tra poco l'ospite mi correggerà. Non vi ho presentato l'ospite. Antonio Talia, buongiorno. Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori. Allora, al telefono, per ovvi motivi, anche noi applichiamo lo smart working, come mai molti ascoltatori hanno immaginato e hanno compreso. Allora, si parla, Antonio, di una nuova ondata di Covid-19, intanto aiutaci a collocare questa provincia nel nord-est della Cina, siamo praticamente al confine con la Russia. Sì, siamo appunto nell'Heilongjiang, che è questa zona all'estremo nord-est della Cina, quindi appunto al confine con la Russia, insieme ad altre due province fa parte di una zona che i cinesi chiamano il Dongbei, che tradotto in italiano significherebbe il nord-est, e sono zone molto inospitali, tra le meno popolate della Cina. E quello che è successo è che in questa cittadina che si chiama Shunfeng, da ieri è in atto un lockdown simile a quello di Wuhan, quindi la città che è stata l'epicentro dell'epidemia. Però bisogna stare molto attenti a parlare di seconda ondata, intanto per le dimensioni e poi per quello che sta succedendo. Sì. Prima di tutto parliamo di una cittadina di circa 100.000 abitanti. Wuhan ne ha 11 milioni. Sì. Quindi già diciamo che balla qualche zero, ecco, per così dire. Esatto. Già le dimensioni dovrebbero insomma metterci in guardia da similitudini troppo azzardate. E quello che è successo è che effettivamente negli ultimi giorni sono stati registrati 87 casi di Covid-19 tra sintomatici e asintomatici in tutta la provincia di Heilongjiang, e molti di questi sono soprattutto cittadini cinesi che rientravano dalla Russia. E ora, Shunfeng è appunto una cittadina piccola, ma è una cittadina di confine, nel senso che c'è una frontiera, c'è una strada e una ferrovia che poi portano direttamente in Russia. Dall'altro lato si vedono appunto si vede già la Russia. La cittadina è stata sottoposta appunto a questo lockdown, che comunque è un lockdown molto più leggero rispetto a quello di Wuhan. Sì. Nel senso che anche qui i cittadini devono rimanere in casa, sono sottoposti a controlli, ma non ci sono quelle misure draconiane che hanno caratterizzato il lockdown di Wuhan, perché per esempio un membro della famiglia, un membro per ogni famiglia può uscire a fare la spesa. Sì. Questi cittadini cinesi che sono rientrati, che sono stati trovati appunto positivi ai test del Covid-19, erano cittadini cinesi che stavano in Russia. Molti di loro avevano preso un volo da Mosca a Vladivostok. Vladivostok dista 200 chilometri da Shenzhen, sì. E poi da lì avevano preso un pullman per rientrare in Cina. Sì. Perché un pullman? Perché ricordiamo che già da un po' di tempo la Russia aveva interrotto i collegamenti aerei con la sì. Cina sì. dall'inizio del mese. E quindi alcuni cittadini cinesi che si trovavano in Russia e che volevano rientrare in Cina avevano adottato appunto questa strategia di provare a rientrare da terra. E, mi rendo conto che la notizia ha attratto molto l'attenzione, perché sentir parlare di un nuovo lockdown in Cina suscita delle nuove paure. Sì. Però insomma, se i segnali preoccupanti ci sono, non arrivano da un lockdown, secondo me, di queste dimensioni, che insomma è abbastanza contenuto. E siccome a volte a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca, potrebbe esserci anche una lettura politica di questa situazione, perché la Cina non aveva ben visto l'interruzione dei collegamenti aerei operata dalla Russia e in qualche modo tutta la narrazione cinese, già da oltre un mese, sta cercando di concentrare sempre di più l'attenzione sui casi che arrivano dall'estero, sì, sì. per defletterla dai casi invece interni. La voce che state ascoltando è quella di Antonio Talia, uno degli autori storici di questa trasmissione, lo ricordo, lunga esperienza in Cina, ha fatto il corrispondente e continua a seguire le vicende cinesi con noi, nessuno che lontano e non solo, con particolare interesse. Antonio, ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, tra poco te ne darò conto e mi aiuterai a rispondere. Cosa significa invece la riapertura di Wuhan? C'è una lettura, come dire, che può essere sbilanciata dal punto di vista politico, quello che dicevi tu. Adesso Xi Jinping e la Cina intera hanno necessità di mostrarsi al mondo con una nuova veste. Una volta erano coloro che diffondevano il virus, adesso sono coloro che diffondono mascherine, medici e potenza salvifica, e quindi chiaramente una seconda ondata sarebbe un serissimo problema. La riapertura di Wuhan fa parte di una più generale strategia di buona comunicazione da parte di Pechino, o secondo te, diciamo che pensar bene, riprendo il tuo motto, si fa bene, c'è qualcosa che non viene detto dal regime di Pechino su Wuhan? Allora, intanto bisogna capire bene che cosa comporta questa riapertura di Wuhan. Wuhan era bloccata da 76 giorni, dal 23 gennaio, non si poteva lasciare la città liberamente. Effettivamente da ieri sono state ripristinate le comunicazioni con questa città che, ricordiamo, conta 11 milioni di abitanti. Sì. Questo però non significa che si può lasciare Wuhan senza alcun problema. Ricordiamo che la Cina ha messo in piedi un complesso sistema di sorveglianza integrata tra intelligenza artificiale e sì. big data per cercare di contenere l'epidemia. Questo ha comportato che i pazienti positivi vengono sostanzialmente monitorati il più possibile attraverso questo sistema. Quindi per lasciare Wuhan in realtà è necessario avere un certificato che è una sorta di semaforo verde, che in realtà non viene rilasciato molto facilmente. Ieri in treno sono state 55.000 persone hanno lasciato Wuhan, sì. e dall'aeroporto sono decollati, qui correggo l'ascoltatore a cui facevi riferimento prima, sì. sono decollati circa 100 voli passeggeri, ma questo non significa che a Wuhan si è liberi tutti. Okay. Lo stesso quotidiano del popolo, che è la voce ufficiale del Partito Comunista Cinese, ha detto che l'apertura della città non significa che si è liberi di aprire le porte di casa propria. Chiarissimo. Anche dal punto di vista economico, sì, stanno riprendendo si sta riprendendo a lavorare a Wuhan, però per esempio stabilimenti importanti come quelli della Honda stanno ripartendo, ma non a pieno regime. Sì. Quindi in qualche modo quello che sta succedendo a Wuhan, con tutte le giuste cautele che possiamo avere nei riguardi della narrazione che arriva dalla Cina, è un po' quello che potrebbe succedere da qui a un po' di tempo anche nel resto del mondo. Però appunto non parliamo di una riapertura totale, sì. parliamo di una riapertura molto molto molto rallentata. Sì, e anche graduale, probabilmente anche a seconda delle linee produttive. Alcune linee produttive presuppongono la distanza, il distanziamento sociale per loro natura, altre no, quindi evidentemente in qualche modo, Antonio Tale, hai già risposto a un ascoltatore, Gianluca da Bologna. Capisco che sia necessario, scrive, in qualche modo commentare quello che accade in Cina, però credo che occorra essere più critici, visto che ormai è chiaro che hanno mentito e continuano a mentire su tutto, i loro dati sono chiaramente falsi. Ecco, anche su questa nettezza io aggiungerei forse qualche sfumatura in più. Non c'è dubbio che non vi è stata trasparenza, soprattutto all'inizio, l'abbiamo raccontato tante volte qui a Nessun Luogo Lontano. Credo semmai che in questo momento vi sia una fase di maggiore apertura, di maggiore trasparenza. Antonio, approfitto ancora della tua presenza perché un altro ospite torna sui numeri della Cina. Quanto sono affidabili, se puoi fare una valutazione a mo' di slogan? Allora, teniamo presente sempre che il sistema cinese è opaco e quindi è estremamente legittimo dubitare di tutti i numeri che arrivano dalla Cina. Qualche tempo fa Caixin, che è un settimanale cinese molto importante che insomma si permette delle libertà nei confronti del governo cinese che ad altri media cinesi non sono consentite, ha effettivamente pubblicato molti dubbi sull'affidabilità dei dati riguardanti Wuhan. Questa notizia è poi stata ripresa e amplificata da altri media occidentali che sono arrivati addirittura a calcolare delle cifre molto superiori rispetto a quelle comunicate dal governo cinese. Io personalmente ritengo che così come diversi dati economici che arrivano dalla Cina devono essere sempre presi cum grano salis, anche i dati sulle vittime debbano essere valutati con estrema attenzione. Certo. Detto questo, non arriverei neanche a un'accusa di opacità totale, ma per una ragione molto semplice, che è una ragione utilitaristica. La Cina non ha nessun interesse a un'epidemia che si diffonde in giro per il mondo e che rallenta le economie del resto del mondo. Questo perché già la sua stessa economia è stata colpita, certo, molto duramente, ne sarà colpita ancora più duramente, e quindi prima si riapre meglio è anche per la Cina e soprattutto per i vertici del Partito Comunista Cinese, che devono comunque fronteggiare una gravissima crisi di immagine dopo l'epidemia di Covid-19. E questo, Antonio Tale, è l'altro fronte, quello interno, che chi si occupa di Cina conosce bene. Il Partito Comunista non è un monolite al potere, ma ha dinamiche, tensioni. Si vociferava anche qualche tempo fa che Xi Jinping potesse vacillare in qualche modo. Intanto grazie mille, Antonio, torneremo a parlare di Cina. Andrea Roccabella, andiamo a sentire come vanno le borse, poi apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, darò conto dei vostri tanti messaggi, ma e parleremo di Stati Uniti. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Tra poco apriremo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, andremo negli Stati Uniti per quella che è la notizia da tanti forse attesa da alcuni giorni, il ritiro di Bernie Sanders e quindi il via libera, semaforo verde per Joe Biden per andare a sfidare in condizioni davvero estreme nella campagna elettorale Donald Trump. Torno un attimo ai vostri messaggi al 349-238-6666. Ferdinando da Bologna, d'accordo sull'opacità e l'occultamento dei dati cinesi, ma esemplare e drastico il contenimento della diffusione del coronavirus, così un ascoltatore. Di ben altro tenore il tono di alcuni ascoltatori che dicono i cinesi hanno assolutamente nascosto tutto. Qualcuno si spinge a dire in Cina non esiste nemmeno l'anagrafe e non hanno strutture per raccogliere i dati, salvo poi, gentile ascoltatore, in alcune regioni e province della Cina attuare un monitoraggio, un controllo sociale che noi ci immaginiamo, anzi per fortuna non abbiamo, per carità, ma come ce lo raccontava lo stesso Antonio Talia. Allora, a questo punto, Andrea Roccabella, votiamo pagina, non c'è tantissimo tempo, occorre parlare di quella che sarà la sfida forse più estrema, lo dicevo, più strana, più complessa che la storia democratica statunitense si sia mai trovata ad affrontare. I have concluded that this battle for the Democratic nomination will not be successful. And so today I am announcing the suspension of my campaign. Così l'annuncio di Bernie Sanders e le motivazioni. Potrebbero essere motivazioni formali, di prassi. Sentite cosa ha detto. As I see the crisis gripping the nation. Dal momento che vedo crescere l'emergenza che attanaglia la nazione, rispetto alla quale il presidente si sta mostrando non capace o non intenzionato a opporvi una leadership forte e credibile, e il bisogno degli americani di essere adeguatamente protetti in queste ore disperate, mi vedo impossibilitato, in buona coscienza, a proseguire una campagna che non posso vincere e che interferirebbe con il lavoro importante che a noi tutti è richiesto in questo momento difficile. Dalla voce di chi sta scrivendo la storia contemporanea della politica americana, la voce di chi la analizza costantemente e la insegna, professor Mario Del Pero, storia della politica estera americana a Sciences Po. Buongiorno professore, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei. Allora, professore, nelle crisi, nelle grandi crisi, così come nelle guerre, gli americani hanno sempre scelto il capo in comando. Succederà la stessa cosa, secondo lei, con un avversario come Joe Biden? Poi mi chiedo anche, cinicamente, non potrebbe essere facile per Biden cavalcare un po' l'emergenza coronavirus e fare opposizione anche un po' strumentale sulla gestione del coronavirus da parte di Trump? In una certa misura agiscono tutte e due le cose che lei ha detto, e lo vediamo anche nei sondaggi. Da un lato il paese si raccoglie attorno al presidente in momenti di crisi, tant'è che in una prima fase il tasso di popolarità di Trump conobbe un'impennata, una crescita. I sondaggi indicavano un apprezzamento generalizzato verso il suo modo molto apparentemente disincantato di guardare a quanto stava accadendo, e però nei momenti di crisi come questo parte anche, diciamo così, il gioco di accuse reciproche su chi è responsabile per la cattiva gestione della crisi. Trump punta il dito contro i governatori soprattutto, ma non solo i governatori democratici, anche perché la politica sanitaria è di competenza statale, non federale, negli Stati Uniti. E Biden o i governatori ovviamente puntano il dito contro Trump, e l'atteggiamento molto ondivago, oscillante, diciamo pure anche inadeguato, che Trump ha manifestato una volta di più di fronte a una crisi di questa portata. Quindi i percorsi possibili sono due, che Trump venga rafforzato, che Trump venga indebolito. Mi rendo conto con una risposta un po' salomonica, però i sondaggi, l'oscillare dei sondaggi, questo ci dice. Per farla breve, io credo che tanto dipenderà poi dalla portata effettiva della crisi, se dovesse radicalizzarsi, durare a lungo nel tempo, ed è un'ipotesi plausibile, noi italiani lo sappiamo benissimo, credo a quel punto Trump potrebbe pagare dazio. Sì, la voce che state ascoltando è quella del professor Mario Del Pero, Sciences Po, esperto di storia della politica estera americana, non solo, segue le vicende con grande attenzione da anni. Citava i sondaggi, professor Del Pero, c'è un sondaggio freschissimo, l'avrà sicuramente visto, commissionato dalla CNN, il 55% degli americani dice che l'amministrazione Trump ha fatto poco per fermare il coronavirus, 8 punti percentuali in più rispetto alla settimana scorsa, e in più aggiungo un dato che è molto interessante, la fortissima polarizzazione. L'85% dei repubblicani dice ha fatto bene, l'85% dei democratici dice ha fatto male. Professore, la rimetto in cattedra. Abbiamo cercato di fotografare Joe Biden. Mi dice se abbiamo fatto bene il compito. In that moment I knew the threat to this nation was unlike any I had ever seen in my lifetime. Nel 2019 si candidava con queste parole. Oggi Joseph Robinette Biden, dopo la rinuncia di Bernie Sanders, è il designato del Partito Democratico a sfidare Donald Trump. Classe 1942, Biden è arrivato a Washington nel 1972. All'interno del Partito Democratico, il suo curriculum è uno dei più solidi. Senatore del Delaware per 6 legislature, ha inoltre ricoperto il ruolo di vicepresidente per entrambi i mandati di Obama, con il quale è legato da una forte amicizia personale. This also gives the internet one last chance to talk about our bromance. I suoi 36 anni di servizio nelle fila del Partito Democratico gli hanno valso diversi appellativi, come Working Class Joe. E coerentemente con la linea del partito, ha come priorità ingenti investimenti pubblici nell'educazione e la riforma del sistema sanitario, di cui spesso parla raccontando alcune tragedie personali, come la morte della prima moglie e di una figlia nel 1972 e il decesso del figlio Beau nel 2015. Biden ha in mente una precisa politica estera che prevede il riallacciamento delle relazioni con gli alleati. Il suo obiettivo è quello di restituire all'America la credibilità persa con Trump e il ruolo di primo piano sulla scena internazionale che le spetta. One recent poll found America's leadership is now less respected than China's and on a par with Russia's. In passato ha appoggiato l'interventismo militare di Bush in Iraq, mentre sul piano interno ha mantenuto costantemente una linea dura contro criminalità e droga, temi solitamente cari al Partito Repubblicano. Recentemente la sua loquacità e disinvoltura gli sono costate qualche gaffe e diverse donne hanno denunciato il fatto di essersi sentite a disagio per il modo in cui Biden si approcciava a loro. I feel Joe Biden put his hands on my shoulders, get up very close to me from behind, lean in, smell my hair. Accuse che Biden ha incassato e per le quali ha chiesto pubblicamente scusa. Il suo volto familiare, la politica moderata e il pragmatismo pare siano stati preferiti al socialismo rivoluzionario di Bernie Sanders. Riuscirà l'ultra settantenne a battere anche Trump? We need help to beat sleepy Joe Biden. I don't think so. Questo è un profilo di Joe Biden. Professor Del Pero, no, non le chiedo i voti, era naturalmente una ironia. Vorrei portare, semmai, il piano della discussione su un altro aspetto molto importante. Mentre un ascoltatore contesta il fatto che stia citando dei dati e dei sondaggi commissionati dalla CNN, la CNN, dice l'ascoltatore, non va bene, è troppo schierata. Allora vado dall'altra parte, vado dalla Fox. Perché nelle scorse ore la Christiana Manpour, ex inviata di guerra, grande anchor woman della CNN, ha sferrato un attacco a muso duro contro la Fox, accusandola, e ha ragione, perché se andiamo a sentire cosa hanno detto sul coronavirus c'è da mettersi le mani nei capelli, appunto, di diffondere fake news. Sentite. The sky is falling because we have a few dozen cases of coronavirus on a cruise ship. I am far more concerned with stepping on a used heroin needle than I am getting the coronavirus, but maybe that's just me. It's a virus like the flu. All the talk about coronavirus being so much more deadly doesn't reflect reality. This virus should be compared to the flu because at worst case scenario, it could be the flu. The far more deadly, more lethal threat right now is not the coronavirus, it's the ordinary old flu. Professor Del Pero, nel panorama mediatico, che ruolo possono svolgere alcune emittenti come la Fox, come il New York Times, come la CNN in questi ultimi mesi di campagna? Tanto promossi per la scheda su Biden. ma in realtà è una bella domanda, perché quello che ci ha mostrato il voto del 2016 forse è che tutte queste fonti di informazioni tradizionali, stampa e televisione, incidono o contano meno di quanto non crediamo. Fox diventa ovviamente una cassa di risonanza del trumpismo, in una certa misura ha concorso a produrlo e generarlo, ha un problema credo deontologico molto marcato, presente anche in altri canali televisivi, penso a MSNBC per il fronte libera, ma molto più acuto nel caso di Fox, che oramai non vi è alcuna distinzione tra il momento, diciamo, del commento e il momento dell'informazione. Sì. La stessa informazione del giornale, diciamo così, è piena di commenti, di indirizzi, di opinione. È saltata proprio quella partizione così basilare, elementare, che dovrebbe essere, diciamo, alla base di qualsiasi forma di informazione radiofonica, televisiva. Sì. Quindi Fox è una cassa di risonanza, però dentro un sistema dell'informazione oramai parzializzato, segmentato, in cui determinati media non tradizionali magari sono capaci di indirizzare o condizionare le scelte, le opinioni e le scelte di voto molto di più dei media abituali. Eh sì, fra l'altro nelle scorse settimane avevo parlato di noti blogger e influencer statunitensi che divulgavano teorie complottiste le più improbabili, ma seguitissimi assolutamente. Professore Del Piero, le chiedo qualche minuto di pazienza, andiamo a sentire come va la viabilità e poi le ultime due domande, perché poi c'è il tema sicurezza in generale, o meglio questa forbice, questa scelta tra la sicurezza dei cittadini e poi il desiderio, la volontà, il dovere anche di andare a votare. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, una prima pagina dedicata a quel virus di confine, il nord-est della Cina, quella piccola cittadina di alcune decine di migliaia di abitanti che preoccupa, ma abbiamo cercato di ridimensionare la lettura, cercare di aderire il più possibile alla realtà compatibilmente con le opacità del regime di Pechino. Poi ci siamo spostati negli Stati Uniti perché la notizia da molti attesa è il ritiro di Bernie Sanders dalle primarie democratiche. A questo punto Joe Biden, Sleepy Joe, come il suo antagonista lo ha nominato, se la dovrà vedere con Donald Trump. Su uno sfondo inedito, totalmente inedito per la politica statunitense, ma anche mondiale, evidentemente, cioè il coronavirus. Alcuni ascoltatori al 349-238-6666, una ascoltatrice, se non erro ascoltatore, perdonatemi, chiede ciò che è stato detto nei servizi della Fox, sostanzialmente era una minimizzare in maniera estrema quella che è stata invece la minaccia del coronavirus, mi cascasse il cielo in testa se questa non è solo un'influenza, eccetera eccetera. Questo è il tono utilizzato in vari talk show della Fox. Dalla voce vostra, degli ascoltatori, che arriva tramite messaggio, alla voce di Mario Del Piero, che insegna storia della politica estera americana Sciences Po Parigi. Professor Del Piero, c'è una paura, o meglio una parola appunto, che è paura, che sta emergendo in maniera sempre più prepotente, visto che la CNN è un po' invisa da alcuni dei nostri ascoltatori. Sentite questo servizio della CBS Chicago, questi che parlano sono poliziotti. Do you feel unsafe going to work? Yeah. And that's why she's worried. I don't know who came on yesterday, who had a family member who tested positive, and they don't know it, and they sit down. Professor Del Piero, questa profonda insicurezza, forse è la prima volta nella recente storia americana, fatto salvo l'11 settembre, dobbiamo noi peraltro registrare che le vittime newyorkesi del coronavirus sono maggiori delle vittime newyorkesi dell'attentato alle Torri Gemelle. E non sta costringendo la politica estera americana, la politica americana, a diventare molto, molto ombelicale? Cioè la paura gli sta facendo guardare dentro tantissimo. E probabilmente sì, anche se si tratta di un'intensificazione e forse di un'accelerazione di una dinamica da un lato storica e dall'altro fattasi più marcata con Trump. Però è evidente che è così in questo momento. Dopodiché gli Stati Uniti rimangono l'unica superpotenza globale, l'unica che ha un raggio di capacità di proiezione della propria potenza su molteplici piani e dimensioni che nessun altro soggetto può pareggiare. E queste, diciamo così, analisi in una certa misura previsioni apocalittiche dei scenari in cui, come dire, gli Stati Uniti crollano, il declino americano, subentra la grande potenza cinese, così le trovo molto approssimative ed avventate, a dire la verità. Sì. Resta il fatto che gli Stati Uniti sono un paese storicamente, come dire, ombelicale, assorbito dal proprio ombelico, anche perché quell'ombelico lì è autosufficiente su molteplici livelli. Pensiamo quanto incide il mercato americano nel trainare l'economia globale e quindi nel trainare anche l'economia statunitense. Sono l'unica superpotenza globale, ma possono permettersi un'opinione pubblica disinformata e molto ombelicale. Sì, nelle parole del professore Del Piero è interessante perché si riprende quel concetto che abbiamo utilizzato nelle scorse settimane, coronavirus, questa pandemia, come acceleratore di dinamiche già esistenti. Il disimpegno della politica estera da tanti quadranti, dall'Afghanistan al Medio Oriente allargato, iniziò già con il presidente Obama. Trump ha dato un'ulteriore spinta, anche se con alcuni tentennamenti, e adesso evidentemente l'amministrazione deve guardarsi l'ombelico perché la minaccia è globale ma allo stesso tempo locale. Qualche ascoltatore, poi torno da lei professore, c'è qualcuno che dice: se Bezos, nonostante il New York Post, ma immagino dica il Washington Post, non riuscirà ad abbattere Trump, la vedo dura per Biden. Biden per vincere dovrebbe tifare per il coronavirus, ma con che coraggio? E qua torniamo al Professore, lo vede possibile un Biden così cinico, spietato e malizioso da stressare la mala gestione del coronavirus presunta? Per il momento i numeri francamente non stanno dando molto ragione a questa amministrazione, appunto da parte di Trump. La vede questa cattiveria politica in Biden? Oddio, non sottovalutiamolo. Io invito a rivedere il suo dibattito del 2012 con Paul Ryan, il dibattito dei due candidati vicepresidente in carica e del candidato vicepresidente. Biden è un politico della vecchia scuola, è di una politica aspra, brutale e spregiudicata, come forse solo la politica democratica statunitense sa essere. La democrazia americana è una democrazia dove lo scontro può essere molto duro e brutale, dicevo. Dopodiché, in una certa misura, come accennavo all'inizio, questa dinamica la vediamo già in atto con l'amministrazione, il Partito Repubblicano che accusa i poteri locali, i governatori. Ieri c'era un articolo sul New York Times di Nikki Haley, l'ex governatrice di North Carolina e ambasciatrice di Trump alle Nazioni Unite, che in maniera più soft puntava il dito contro la responsabilità dei governatori. E Partito Democratico, tanti poteri locali, sindaci e governatori, a partire ovviamente da Andrew Cuomo, governatore di New York, che accusano invece l'amministrazione. E quindi ci sarà questo gioco politico, questo gioco di accuse reciproche, sì, che sarà accentuato e acuito dalla campagna elettorale e dal voto di novembre, e Biden vi parteciperà. Poi Biden ha mille altre fragilità, la più banale delle quali è un'età che in alcuni momenti di queste primarie si è manifestata tutta. Biden era chiaramente affaticato, in difficoltà nei tempi stretti dei dibattiti televisivi. Io devo dire, confesso, che ho assistito alla rinascita di Biden con molta sorpresa, me la sarei aspettato dopo i primi voti in Iowa e New Hampshire. Sì, ecco, diciamo che tratteggiando, professor Del Piero, punti di forza e punti di debolezza, abbiamo un Donald Trump che con la conferenza quotidiana sull'andamento del coronavirus e dell'emergenza si può lasciare andare a esternazioni politiche che vengono poi riprese da tutti i media. Invece Joe Biden si trova per forza di cose un po' più offuscato. L'ultima domanda, professor Del Piero, poi la ringrazierò, la lascerò al suo lavoro. Manca l'endorsement di Obama, che però forse a questo punto non è un po' pleonastico. Biden era il suo vice, non suonerebbe quasi ridondante? Quanto può spostare nel voto un endorsement di Obama, che a questo punto è ovvio, è scontato, se non c'è stima per il suo ex vice? Allora, tutto quel che sappiamo, Obama in realtà è intervenuto dopo il voto in Nevada, in South Carolina, nel sollecitare Buttigieg, Klobuchar a farsi da parte, a fare una dichiarazione di voto per Biden. Quindi ha agito da kingmaker quando ha visto che l'unico in grado di fermare Sanders era Biden, è intervenuto Obama, così ci si dice. Obama in realtà, se seguite i social media, si è fatto più presente in questi ultimi giorni sulla partita del coronavirus, è intervenuto più volte con dei messaggi, con delle critiche soft all'amministrazione. Ovviamente Obama sarà eventualmente, se si terrà, la star della convention di Milwaukee, nella quale a quel punto da padre nobile del Partito Democratico introdurrà e presenterà il suo vice. Sì. Obama, stando ai sondaggi, è ex presidente molto molto popolare, dentro un contesto estremamente e rigidamente polarizzato, lo ricordava anche lei. Si spostano pochissimi voti, però Obama qualche voto probabilmente lo sposta, e quindi si spenderà evidentemente per farlo. E lì, professor De Piero, sarà una questione di timing, no? Decidere quando parlare e cosa dire diventa fondamentale. Grazie mille al professor Mario Del Piero, storia della politica estera americana, Sciences Po. Professore, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. (349) 238 6666 per i vostri messaggi. Abbiamo gli ultimi risicati minuti, ma vi do con grande piacere ancora una volta voce. C'è un ascoltatore che mi bacchetta: lei non ha capito che l'ascoltatrice di prima la invitava a tradurre la conversazione, non Fox, era CBS, cosa hanno detto i poliziotti americani. I poliziotti americani dicevano, alla domanda dell'inviato della CBS se avesse paura, ha detto sì, nessuno di noi sa perché siamo venuti al lavoro, siamo tutti qui seduti gli uni vicino agli altri, così dicevano alcuni poliziotti appunto intervistati. Altri messaggi che arrivano al 349-238-6666, c'è qualcuno che dice ringraziate la Warren per la presenza di Biden. Qualcun altro torna a un tema che abbiamo trattato ampiamente qui e nessun luogo è lontano, e dice il messaggio testualmente: l'NRA, il National Rifle Association, cioè quindi quell'associazione che fa anche lobby per i portatori di armi negli Stati Uniti, potentissima, sta facendo affari d'oro grazie al coronavirus e grazie alla paura. Ma quali altre lobby, si chiede l'ascoltatore, possono tifare per Trump in un contesto come questo? Tante fabbriche chiuse o riconvertite a produrre respiratori. E sottolineo un aspetto che è stato molto interessante andare a indagare: in questi momenti di emergenza e di pandemia l'incertezza si tramuta in paura e la paura si tramuta in acquisto di fucili, di pistole. Abbiamo mandato in onda delle testimonianze in cui gente si recava nelle armerie chiedendo: mi dia qualsiasi cosa. Il venditore diceva: non abbiamo più fucili, va benissimo anche una pistola, qualsiasi cosa purché spari. Mancano 20 secondi, so che Andrea Roccabella sta per sparare un ordine. Io naturalmente obbedisco lanciando i titoli di coda. I ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.